Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati Fumetti a Sinistra, che ritorna ancora alla figura di Alberto Manzi in questo secondo appuntamento in occasione del suo centenario della nascita. Oggi ascolteremo la testimonianza di Roberto Farnè, che ben conobbe Alberto Manzi, fece anche un'importante intervista dove lo stesso Manzi raccontava di se stesso, non è successo tante volte. E Roberto Farnè oggi è anche autore di Educare la libertà, l'insostenibile pesantezza dell'educazione, che viene ristampato. Dopo lo stacchetto musicale, a lui la parola. Racconterò un po' che qual è stato il mio rapporto con Alberto Manzi, non solo per averlo visto da bambino in televisione, vabbè, come appunto condividiamo il bianco e nero, insomma, no? Condividiamo, abbiamo tutta una storia in bianco e nero, ma perché alla fine degli anni 90 stavo facendo una ricerca sul ruolo educativo della televisione in Italia. Erano gli anni in cui tutti contro la televisione, TV cattiva maestra, pop, tutte le maledizioni possibili contro la televisione, eccetera. Io invece volevo dimostrare attraverso questo studio che la televisione in Italia è stata una buona maestra. Ovviamente fra le varie cose che cui mi sono occupato doveva esserci anche Alberto Manzi, Non è mai troppo tardi, perché questo programma per 9 anni è stata una pietra miliare nella storia della televisione educativa in Italia, anche conosciuto a livello internazionale. Quindi è un programma che poi ebbe dei riconoscimenti a livello internazionale anche per l'impegno che ebbe e per l'impianto. Ma ovviamente, come fa ogni ricercatore, cerca quello che c'è su questa cosa, ricerche, studi, articoli, eccetera. E scoprì che non c'era nulla. Praticamente questo programma televisivo, che è stato il più importante esperimento in Europa di educazione a distanza in quegli anni, non è stato studiato da nessuno. Questo ce la dice lunga sul livello della ricerca scientifica nel campo delle nostre discipline, ma non solo, non è solo un problema di ricerca pedagogica, anche sociologica, anche nessuna ricerca. Tant'è vero che Alberto Manzi dice: ma io non lo so quante persone hanno preso la licenza elementare avendo visto questo programma. Si dice 1,5 milioni, cioè, però non si sa, per cui nemmeno questo si sa. Io feci delle telefonate anche a persone molto anziane in Rai per sapere, cioè, non c'era niente. Dunque l'unica cosa che potevo fare era andare ad Alberto. Lo contattai, lui abitava a Pitigliano, e gli chiesi se potevo fargli una intervista per questo studio che stavo facendo. Lui fu molto cortese, mi disse sì, volentieri. Andai con il nostro tecnico del laboratorio audiovisivi per fargli una video intervista. La mia intenzione era capire come funzionava questo programma, cioè come era nato, quali erano le caratteristiche dall'interno, cioè dal suo punto di vista, poiché lui l'aveva condotto. Perché noi quello che sapevamo era che c'era un personaggio in televisione che faceva, insegnava leggere e scrivere gli italiani, ma non sapevamo nient'altro in sostanza, o poche altre informazioni. Questa intervista, io partì da qui, l'intervista durò moltissimo, sono stati insieme 2 ore e mezzo, e in realtà lui raccontò non solo del programma televisivo, come nacque appunto Nazareno Padellaro, il ruolo che lui ebbe, Maria Grazia Puglisi, che era la dirigente di Telescuola in quegli anni. La Telescuola era la struttura della RAI che aveva in carico Non è mai troppo tardi insieme ad altri programmi televisivi. E soprattutto tutto l'impianto, come lui arrivò ovviamente a essere selezionato per questo programma televisivo. Lui mi disse che secondo lui il direttore didattico voleva liberarsene, lo mandò in televisione, però dice ma è una mia illazione. Per cui diciamo, lui raccontò, e non è mai troppo tardi, ma raccontò molte cose della sua vita, l'esperienza del carcere, come faceva a scuola, il problema della valutazione. In pratica fu un racconto lungo, l'esperienza in Sud America, di cui nessuno sapeva assolutamente nulla, né lui ne aveva mai parlato se non con i suoi familiari, le uniche persone con cui ne aveva parlato. È una persona molto riservata e questa intervista per me fu una rivelazione, cioè poi lui era una persona molto pacata, simpatica, ma anche molto suggestivo, aveva una capacità comunicativa straordinaria e in televisione lo si vedeva ovviamente, ma anche durante quell'intervista era veramente affascinante. Ascoltarlo era, tant'è che dopo 2 ore e mezzo diceva insomma non vi ho ancora stufato, state ancora qua ad ascoltarmi, insomma, no, e saremmo stati ancora lì ovviamente. Lui era già malato in quel periodo, aveva un tumore al pancreas, in quei momenti stava abbastanza bene, però dopo si aggravò in sostanza, alla fine dell'anno poi morì. Io volevo tornare, sarei voluto tornare da lui per approfondire alcune cose, ma non potei farlo. Questa intervista per me fu una rivelazione, tant'è che immediatamente io lavorai su questa intervista, poi pubblicai il libro Buona Maestra TV, da Non è mai troppo tardi a Quark, e pubblicai l'intervista con il consenso della moglie, dopodiché mi scrisse una lettera dicendomi: caro professore, è molto bello quello che lei sta facendo su Alberto, perché nessuno di lui si è mai voluto occupare, né lui faceva molto per rendersi evidente, perché lui era il maestro di Non è mai troppo tardi, è finita lì in sostanza. Poi che lui avesse insegnato 35 anni nella scuola Fratelli Bandiera facendo cose straordinarie, interessava niente a nessuno. Non è mai troppo tardi, non è stata che la punta di un iceberg. Quello che ci sta sotto, dietro, intorno, è tantissimo. Appunto è lo scrittore per ragazzi, Port Away è uno dei romanzi italiani più tradotti nel mondo. È stato fatto il film, Yves Allégret, il regista, ha fatto un film su Port Away. Grove, Storia di un castoro, è diventato un film d'animazione anche, insomma. I suoi romanzi sudamericani sono molto suggestivi. Questo è molto interessante, questo aspetto, cioè lui ogni tanto andava in Sud America, aveva una missione di Salesiani, Don Giulio Pianello era il suo amico, fraterno, e lui andava lì a fare l'educatore, ma faceva molto altro, faceva anche attività politica, tant'è che lui nell'intervista mi ha detto: io dopo a un certo punto non sono più potuto andare, perché di fatto era persona indesiderata, non gli davano più visto in sostanza. Per cui tutta questa vicenda, tutta questa vita, fa di Alberto Manzi un maestro che io ho definito avventuroso, ma nel senso più bello del termine, nel senso dell'avventura formativa, del vivere l'educazione come un'avventura, come una ricerca continua, dove l'apprendimento, l'insegnamento e l'apprendimento nei confronti dei bambini è anche un'avventura per l'insegnante. Questo libro a me piace molto citarlo, non è un libro mio, è il libro che ha scritto un mio allievo, Domenico Tridico, si chiama Con il ricordo siamo tutti presenti. In questo libro lui ha intervistato una decina di suoi ex allievi, che adesso hanno più di 50 anni, insomma allievi negli anni 70 in sostanza, facendosi raccontare com'era Alberto Manzi come maestro. Perché com'è un insegnante a scuola, lo sa l'insegnante e i suoi bambini, non lo sa nessun altro. Chi entra dentro? Chi è che vede? Nessuno. Poi Alberto Manzi l'ha fatto vedere, lui è uno dei pochissimi insegnanti di cui noi sappiamo come faceva a scuola, perché lui in televisione con il Dipartimento Scuola Educazione faceva dei programmi televisivi in cui faceva vedere come faceva il maestro. Altrimenti lo sanno i suoi allievi, e in questo libro i suoi allievi raccontano come lui era come maestro. Ed è veramente interessante, perché vedere come questi ex allievi sono stati segnati profondamente da questa esperienza, al punto che dicono che quando loro uscivano dalla scuola primaria, elementare, e andavano alle medie, era un disastro. Cioè noi non sapevamo niente, era un trauma, cioè lo dicono proprio espressamente. Solo c'è un dettaglio però, molti lo confermano, nel giro di 5-6 mesi noi avevamo recuperato tutto, cioè avevamo delle tali basi solide dal punto di vista del come si impara,

ero la segretaria di Lina Fibbi, perché io nel 48 sono entrata all'aula dalla direzione del Partito Comunista, sì. Perché facevo la tessile, mi avevo licenziato e allora il partito mi ha detto guarda. Poi quando Rodari ha fondato la Pioniere, ha chiesto che voleva una persona seria, competente, che potesse darle una mano. Dato che io avevo fatto a Casal Bertone, avevo fatto la maestra delle colonie permanenti, una grande esperienza per i bambini delle borgate che venivano lì la mattina e se ne andavano la sera. Quando le mamme non potevano venire a riprendersi i bambini, qualche bambino dormiva là. Allora dormendo là io stavo con loro, insomma. Certo. È stata una cosa, un'esperienza molto bella, perché pur non avendo io nessuna esperienza di trattare con i bambini, però imparavo da loro. Sì, sì, lì te la sei fatta. Quando io sono andata a lavorare con Rodari, io gli ho raccontato che cosa facevo con questi bambini. Io dicevo, io non sono un insegnante, non ho nessuna cultura di pedagogica, non ho studiato perché non ho studiato. Quindi. Allora mi affidavo molto a quello che i bambini dicevano. Io volevo imparare dai bambini, io non volevo insegnare ai bambini, volevo imparare io dai bambini. E quindi questo per me è stata una cosa molto bella, perché ogni bambino ti dava qualcosa, capito? Anche perché erano bambini poverissimi, abitavano nelle baracche, una fontanella ogni 500 famiglie, case fatiscenti. Poi c'era stato l'alluvione e quindi queste case erano la pioggia che c'era stata. Ah, quindi addirittura le fogne, insomma, non c'era proprio sistema fognario, niente. No, lì c'erano fognature, c'erano niente, per cui a un certo punto la borgata era finita in un mare di fango. Ah, senti, in un mare di fango. Quindi quando c'è stato l'alluvione a Borgata Prenestina, questi bandoni sono caduti, hanno ferito pure dei bambini, sì, delle cose, eccetera. Quindi tu quando sei arrivata praticamente da... Quando io sono arrivata da... Mi hai raccontato questa esperienza. Capito? Allora lui ha cominciato a riflettere su quello che io gli avevo detto, che cioè io volevo imparare dai bambini. E lui questa cosa di che io volevo imparare dai bambini gli è rimasta proprio impressa. E mi chiedeva che cosa dicevano i bambini. Allora io dicevo quelli che avevano paura del buio, i bambini che... avevano paura di non mangiavano velocemente, fretta, perché avevano paura che non gli toccasse niente a loro, sì, da mangiare. Quindi c'era una cosa veramente. Poi c'erano dei bambini che avevano una fantasia, una cosa che tu rimanevi scioccata dalle cose che raccontavano. Ma che se le inventavano, perché non ci avevano nessuna attinenza, né con la famiglia, né non c'era nessuna attinenza con loro. E allora, che cosa è successo? Che Rodari ha cominciato a fare alcune novelle, alcune filastrocche, cose. Le prime, sì. Le prime. Su questi racconti che io gli avevo fatto, ma lui era di un'intelligenza eccezionale. Era un uomo straordinario. Non c'era bisogno che io gli insegnavo niente, perché lui già sapeva tutto, perché lui questa cosa già l'aveva fatta in passato. Lui era un maestro, perché lui era... Lui era un maestro, però lui il maestro l'ha fatto poco. Pochissimo. Lui all'inizio l'ha fatto, mi ha raccontato che all'inizio c'erano questa famiglia di ebrei, tedeschi, che lui l'hanno preso come tutore. Sì. Che poi questi sono dovuti scappare perché c'è stata una spiata, sì, c'era pericolo che li arrestavano, quindi lui ha smesso di fare. Però aveva imparato il tedesco da questi bambini. E anche lì lui ha avuto, mi diceva che lui ha avuto l'approccio, lo stesso approccio che ci ho avuto io quando ho fatto con la maestra delle colonie. Sì, sì. Capito? E quindi certe cose noi non ci avevamo Stavamo sullo stesso binario, non so se... Sì, comunque i bambini, sia che fossero di una famiglia magari borghese, sia di famiglie proletarie, comunque il tipo di approccio alla vita, alla creatività, era quello. Ma poi i bambini che si inventavano i giochi, per esempio c'erano dei bambini che se tu gli davi un giornale, che questi non so che ti costruivano, con un foglio del giornale, ma non solo le barchette, le cose, ma riuscivano a fare addirittura dei dadi che si mettevano così fra le dita e li aprivano, li chiudevano, eccetera. Allora io gli davo i colori per colorare questi cosi che loro facevano. E era una cosa molto bella perché loro, quando io gliel'ho fatti colorare questi che facevano così, non aprivano, si facevano... Sì, me lo ricordo questo gioco che poi è... Sai, forse si fa ancora, sì. Non lo so. Se si fa ancora. Però loro l'avevano colorati, ma l'avevano colorato di blu, di nero, di rosso, di questi. E ogni bambino si era scelto il colore diverso, perché noi avevamo tantissime compagne dei quartieri alti che stavano bene economicamente, che ci regalavano i colori, ci portavano, quelle erano comuni. Senti, Luciana, per quanti anni hai lavorato con Rodari? Tutto il periodo tutto che lui ha fatto? Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.